Effetto Mondo. You're actually sitting too close. You should really, we should probably get rid of about another 75-80% of you. I'll have just two or three that I like in this room. I think that's a great way of doing it. Inconfondibile non solo per il ciuffo, ma anche per il piglio e il tono di voce. Buongiorno a Giulia Crivelli, come stai? Lui è Trump, ovviamente. Non lo so, buongiorno, vado intuito così, però. Sì, è il nostro Trump quotidiano, perché ormai è diventato quotidiano anche per gli americani. Era un po' titubante all'inizio sul fare queste conferenze stampa giornaliere, poi lo hanno convinto, nei primi giorni è riuscito a dare molto spazio agli esperti e agli altri membri della, insomma a tutti i membri, esperti medici intendevo, ma anche altri membri della task force che ha istituito per il coronavirus. Poi si è un po' ripreso la scena e ieri in particolare se l'è presa con i giornalisti, perché ne danno conto tutti i giornali. In questo audio, tra l'altro, diceva appunto: ma io vi vedo più diradati oggi, perché finalmente anche loro, anche i giornalisti nella platea, hanno cominciato a prendere quelle distanze che qui ormai siamo abituati a prendere. E però comunque resta il fatto che il 75-80% di voi io li vorrei fuori da questa stanza. Ce n'è giusto due o tre di voi che mi piacciono, voi giornalisti come accreditati. Come se dovessimo piacerli per forza, non ho capito. Vabbè. Esatto. E però il tema era, e questo lo ha molto innervosito, perché la domanda gli è stata ripetuta per tre giorni di seguito. Lui continua a chiamare il coronavirus virus cinese, Chinese virus, e è stato fatto, lo riportano molti giornali, che sono state scattate delle foto, e siccome è qualcuno alle sue spalle, insomma, viene da dire un telefonino un po', una manina un po' indiscreta, perché non può essere che qualcuno dell'amministrazione Trump, dove si vede chiaramente che nello script che lui aveva c'era scritto coronavirus e lui l'ha cancellato e ha scritto sopra Chinese virus. Questa cosa dà molta noia naturalmente alla Cina, ma anche sta, tra l'altro, come era successo qui, lo ricorderai sicuramente, nei primi giorni si stanno anche registrando proprio degli spiacevolissimi episodi di insulti verbali o magari addirittura, certo. Esatto, verso i cinesi, accusati appunto di essere gli untori. Se Trump avalla un po', questa l'idea delle domande che gli fanno i giornalisti, stia attento a non avallare questa teoria, perché appunto in un clima già così teso, dove sappiamo gli americani fanno la coda per comprare armi, quindi prevedono probabilmente ulteriore tensione, insomma non sarebbe il caso di aizzare ulteriormente, cioè, gli animi. La diffusione del coronavirus, scusami Giulia, sta avendo come effetto l'aumento dell'acquisto di armi? Sì, mentre si fa scorta anche negli Stati Uniti di carta igienica. Ci sono degli audio che girano in rete, impressionanti, di persone in questi gli Stati Uniti sono stati un po' i primi ad avere questi negozi tipo Metro, dove un po' prima, certo, ancora dei nostri, diciamo, della Lidl, degli hard discount, quindi scaffalature enormi dove quasi si fa self service anche dalle parti più alte, con queste lunghe braccia metalliche, e la gente si picchia. Si è già visto, devono intervenire i sorveglianti, questo per la carta igienica. Però ci sono anche lunghissime code, specialmente in alcuni stati, davanti alle armerie, perché la gente sta facendo scorta di armi. Purtroppo sì, gli Stati Uniti si possono, sì, comprare come noi compriamo la carta igienica, quindi... No, è interessante, questo. Diciamo, se non fosse drammatico ci sarebbe un po' da sorridere, ecco, su questo tipo di acquisti così opposti rispetto a questa epidemia. Però... Poi... Prego. Poi naturalmente, siccome sappiamo che ancora al di là dello stato d'emergenza generale, delle misure economiche che Trump ha annunciato e che verranno tra l'altro sbloccate, questo diamo atto agli americani, quando lui dice cancelliamo red tape, che è il loro modo di dire burocrazia, poi lo fanno davvero, quindi entro due settimane dovrebbero arrivare per posta, qui siamo a discutere di click day, dovrebbero arrivare per posta questi assegni da $1,000, però poi tutti i giornali si occupano dei loro rispettivi stati, perché non ci sono misure sulla chiusura. Allora, per esempio, il Dallas Morning News dà l'idea di tutto quello che sta succedendo in Texas, i giornali californiani di questo lockdown della California. Il Washington Post pubblica questa notizia interessante, se vogliamo inquietante, come se avessimo bisogno di essere ulteriormente inquietati, perché dai primi dati verrebbe contraddetta quella tendenza che c'è stata in Cina, in Italia, in Spagna, cioè nella maggior parte dei ricoveri, purtroppo dei decessi, nella fascia, diciamo, dai 75 35 in su. Negli Stati Uniti il 38% dei ricoverati, ma e se negli Stati Uniti ti ricoverano vuol dire che hai bisogno di terapia o subintensiva o intensiva, ha meno di 55 anni. Quindi da questi primissimi dati ci sarebbe ancora una volta questo virus ci stupisce in continuazione. Dunque, da lì io direi forse ci vogliamo spostare sul nostro continente. Che dici? Mm-hmm. Sì, nel Regno Unito abbiamo il negazionista in chief numero 2, Boris Johnson, che però sappiamo ha fatto un po' marcia indietro, anche lui recalcitrante a vietare per legge le aperture di negozi di ogni tipo, poi in realtà stanno tutti decidendo di farlo. Ieri Selfridges, questa grande catena di supermercati, oggi tantissimi anche sono arrivati, cominciano ad arrivare tutte le chiusure delle grandi catene di moda o lusso. Tanto che anche l'Economist, che è insomma britannico, ha una sola edizione questa settimana sia per il Regno Unito che per il mondo, c'è il disegno di un pianeta e sopra c'è il cartellino closed. Poi però i giornali britannici e i britannici hanno diciamo questo grande vantaggio rispetto a noi, hanno un grande motivo così di distrazione, che è la famiglia reale. Sono sempre tutti molto interessati e tutti i giornali oggi pubblicano questa foto stupenda della regina con un po' di rossetto, un velo di rossetto. È veramente una signora di 92 anni fantastica, vorrei arrivarci a 92 anni così. Fino a poche settimane fa andava in giro eventi pubblici, adesso gliel'hanno proibito, quindi tutti i giornali britannici pubblicano questa foto, che è la foto diciamo rubata della sua macchina che usciva da Buckingham Palace e la portava al castello di Windsor con una settimana di anticipo sulle vacanze pasquali, se vogliamo sentire la sua voce. Esatto. Dove, sì, nel senso non è la sua voce perché ha mandato un messaggio scritto, però poi lo hanno letto urbi et orbi. Many of us will need to find new ways of staying in touch with each other and making sure that loved ones are safe. I am certain we are up to that challenge. She ended by saying, "You can be assured that my family and I stand ready to play our part." Quindi ecco, ciascuno no, fa la sua parte. Sì, tutta la mia famiglia e io stessa faremo la nostra parte e cercheremo, insomma, dice come anche noi saremo costretti a restare in contatto con mezzi nuovi. Del resto sappiamo che lei ha tutti i suoi account sui social, le ha insegnato molto il suo forse ex nipote preferito Harry a usarli. Quindi se n'è andata nel Windsor Castle con uno dei suoi cani, che sembra quasi più anziano di lei le foto, ed ha dato questo messaggio di rassicurazione. Ripeto, non ci sono ancora chiusure lockdown ufficiali. Ieri Boris Johnson ha ripetuto che invece per le scuole sì, questo divieto è importante, e poi ha fatto questi proclami abbastanza ottimistici, perché tutti sappiamo che l'onda lunga poi andrà, insomma, sarà per definizione lunga anche quando forse ci toglieranno appunto il lockdown, e tutti i giornali aprono su questo. Tra 12 settimane saremo fuori da ogni emergenza. È un wishful thinking, esatto, per usare un'espressione forse inglese. Forse perché stanno all'inizio, forse perché noi abbiamo iniziato il 20 di febbraio e insomma il tunnel è ancora lungo da percorrere, no? Quindi all'inizio sì, ci sembrava una cosa breve, ma adesso capiamo che non è così. Sempre sul tema insomma di come stanno, se abbiamo ancora un minutino, Haaretz, che è il quotidiano israeliano, ancora una volta dice: Netanyahu forse non è un leader, non è il leader più democratico a cui possiamo aspirare, del resto in questo momento non ha neanche l'incarico a formare un nuovo governo, però sa gestire bene le crisi. E c'è molta polemica su questo uso della tecnologia con relative violazioni della privacy che Israele potrebbe fare per tracciare la posizione di tutti, sostanzialmente soprattutto di tutte le persone a rischio, di chi ha fatto il tampone e magari deve essere tenuto sotto controllo. È un grande tema che discutiamo già anche noi, e Israele ha un approccio diciamo a gamba tesa, ecco, su questa cosa. Sì. Senti, gli ultimi minuti veramente che abbiamo, ne abbiamo un e mezzo, hai citato il negazionista in chief numero 2, invece il negazionista quello brasiliano, diciamo lui sì, insomma non esiste, no? Non c'è problema, l'Argentina si chiude, no, ma il Brasile va bene così. Sì. c'è un lui continua tra l'altro ad andare in giro per comizi, molti dei suoi parliamo di Jair Bolsonaro naturalmente, molti dei suoi collaboratori sono positivi al coronavirus, ma lui continua a sottovalutarlo però ieri l'edizione brasiliana di El País ha dato conto di questo sondaggio di un istituto indipendente che solo 3 settimane fa aveva certificato l'estrema popolarità di Jair Bolsonaro e di come tutti i brasiliani lo avrebbero rivotato se si fosse andati a elezioni a breve periodo, e però adesso invece il 64% dei brasiliani disapprova il modo in cui sta gestendo la crisi da coronavirus, e addirittura il 45% sarebbe pronto ad appoggiare una sorta di impeachment alla brasiliana, perché adesso è troppo anche lì. Cioè, quando cominci a vedere, è chiaro, insomma, quando cominci a vedere le persone vicino a te che la crisi del coronavirus la vivono e come sulla loro pelle, non credi più a Jair Bolsonaro. È precisamente quella, è sicuramente la svolta. Senti, devo dire una cosa agli ascoltatori, ti rubo questi 10 secondi di Effetto Mondo per rassicurarli. Alessio sta bene, torna lunedì, vi ritroverete lunedì come di consueto, la mia presenza è del tutto occasionale qui oggi. Mi ha fatto molto piacere comunque, come sempre Giulia, parlare con te, leggere i messaggi degli ascoltatori di Effetto Giorno, quindi a tutti quanti diamo l'appuntamento a lunedì prossimo. Grazie Giulia, a presto. A presto. Allora ringrazio anche Jacopo De Franchi in assistenza, Claudia Schiattone anche lei in assistenza, Carmelo Lauricella per questa puntata. Ci ritroviamo appunto con, per quel che mi riguarda, si può fare sabato e domenica alle 8:30 con Effetto Giorno, invece l'appuntamento è rinnovato con Alessio Maurizi lunedì come sempre alle 13:00.